Focus Economia con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la pagina Facebook di Radio 24, quella di Focus Economia, dalle quali andiamo in diretta video, se volete potete quindi anche vederci e potete commentare anche là. Dall'altra parte del vetro, Valeria Bernardi in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in assistenza e in redazione. Di che cosa parleremo oggi? Innanzitutto di pensioni, avete già sentito la voce del ministro Poletti poco fa in GR24, sicuramente la notizia di giornata dal punto di vista economico, questa trattativa che si interrompe quantomeno con la CGIL, che annuncia una mobilitazione per il 2 dicembre. Il tema, ormai lo sapete, è quello dell'allungamento dell'età pensionabile, del passaggio ai 67 anni e i correttivi che il governo vuole mettere in campo sostanzialmente per venire incontro proprio alle richieste sindacali e di una parte della popolazione, cioè bloccare in parte questo automatismo che fa sì che sulla base dell'aspettativa di vita calcolata dall'Istat si modifichi l'età nella quale si può andare in pensione. Ma come avete sentito, su questo c'è stata una rottura. Da una parte l'esecutivo che ha guardato fin dall'inizio, soprattutto dalle parti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un certo sospetto a questa operazione, guardandola un po' come un'operazione preelettorale che però rischia di creare problemi di tenuta dei conti, e dall'altra parte appunto la CGIL invece che vuole, la CGIL è un pezzo politica ormai lontana dal Partito Democratico, ma comunque nell'area del centrosinistra, MDP, Sinistra Italiana e non solo, che appunto è a favore di una qualche modifica, di qualche cambiamento. Vedremo di fare il punto, sentiremo le voci di questa giornata e di questa rottura, ci faremo raccontare qualche dettaglio in più su qual è la proposta che il governo ha messo sul piatto. Lo faremo con un collega del Sole 24 Ore che sempre di pensioni si occupa, che è il nostro Davide Colombo. Parleremo di mercati, naturalmente. La giornata di oggi è una giornata positiva, in questo momento il FTSE MIB guadagna lo 0,76%, il FTSE Share lo 0,84%, per quanto riguarda i principali titoli abbiamo UbiBanca che scende del 2,4%, Banco BPM dell'1,82%, BPR Banca che scende dell'1,6%, quindi abbiamo alcuni bancari tra i titoli peggiori. Bene fanno invece Tenaris più 3,31% ed Enel che guadagna il 3%, nella giornata nella quale presenta il piano strategico 2018-2020, e anche questo sarà uno dei nostri temi di approfondimento. Andremo dalla nostra inviata Laura Bettini, che si trova a Londra a seguire la presentazione di questo piano strategico, e sentiremo anche delle voci e delle interviste raccolte da là. Altro tema, quello dei taxi, lo dico agli amici tassisti che sono già in ascolto e che immagino si scateneranno, perché a partire dalle 18, dopo, nella seconda parte della trasmissione, ospiteremo il vice ministro Nencini, la persona che si è occupata di portare avanti la trattativa con tassisti ed NCC, la persona che ha avuto parole piuttosto dure per la rottura di questa trattativa. Il governo ha presentato un documento sul tema delle piattaforme tecnologiche. Non nascondiamoci che parliamo genericamente di piattaforme tecnologiche, ma i tassisti intendono Uber, non stanno parlando di altro, perché ci sono delle cooperative di taxi, anche delle aziende che gestiscono taxi, che le piattaforme tecnologiche ce l'hanno e le usano regolarmente. Pensate solamente a MyTaxi, per chi la conosce, ma anche altre cooperative più tradizionali che ormai usano piattaforme tecnologiche anche per chiamare i taxi. Quindi il tema alla fin fine è sempre quello, il tema è sempre Uber. Parleremo col ministro Nencini, cercheremo di capire poi se c'è anche un progetto più largo di revisione di tutto il sistema, perché il tema è sempre quello, lo scontro da una parte tra appunto i tassisti, che hanno le loro ragioni, perché poi c'è gente che si è comprata la licenza pagandola a caro prezzo, adesso si vede sottrarre un pezzo di lavoro, per così dire, e dall'altra parte la necessità di stare al passo coi tempi. Comunque oggi sciopero dei tassisti fino alle 22, con manifestazioni davanti al ministero, con una parte che si è diretta verso Palazzo Chigi, ci hanno raccontato anche di qualche bomba carta, insomma, però sono al momento episodi limitati, e anche di questo parleremo. Vi ribadisco i numeri 349-238-6666 per sms e whatsapp, le notizie in breve di oggi. Le materie prime innanzitutto, con l'oro in rialzo dello 0,7% a $1,284 l'oncia, in risalita anche il petrolio con il Brent che sale di mezzo punto percentuale a $62,5 al barile, il WTI a 56,9 e sale dello 0,94%, di quasi un punto percentuale. Notizie da Foxconn, il maggiore fornitore di Apple, che ha usato lavoro studentesco illegale per produrre l'iPhone X per far fronte ai ritardi della produzione. È quello che scrive il Financial Times, citando il caso di 6 studenti liceali che facevano parte di un gruppo di 3.000 studenti inviati a settembre a lavorare ad un impianto di Foxconn. Venivano fatti lavorare 11 ore al giorno. Agli studenti di età compresa fra i 17 e i 19 anni era stato detto che lavorare 3 mesi nella fabbrica rappresentava quell'esperienza lavorativa necessaria per completare gli studi. Non c'è che dire, una bella alternanza scuola-lavoro, 11 ore al giorno nella fabbrica della Foxconn. Sì, ha ragione, si dice iPhone X, ce lo scrive un ascoltatore. Sì, iPhone X. Alcuni dicono iPhone X, altri dicono iPhone X. Comunque sì, è iPhone X, perché è quello del decennale, tra l'altro. Della Germania abbiamo raccontato ampiamente ieri, sono in corso ancora i colloqui per cercare di capire che a cosa si può approdare dal punto di vista del voto, se si andrà a votare di nuovo, se si arriverà a fare un governo di coalizione, un governo di minoranza. Intanto, dice il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, ha detto che segue da vicino la situazione di stallo, che ha parlato con la cancelliera Angela Merkel e ha chiarito anche il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, che l'esecutivo europeo non andrà in pausa e proseguirà a portare avanti le sue proposte. Beh, ci mancherebbe altro. Ci sono da registrare le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, il quale dice che il debito italiano è un grande costo per l'economia. Al momento viviamo in un ambiente di tassi bassi, ma se c'è un cambio di politica monetaria, se l'inflazione risale, questo si somma ai costi e può essere fonte di instabilità. E per questo l'Italia dovrebbe sfruttare questa congiuntura per far scendere il debito. Dice ancora Dombrovskis, intervistato dall'agenzia ANSA, l'Italia migliora, appunto, bisogna agire sul debito. C'è anche qualche risposta sull'assegnazione che vi abbiamo dato ieri in diretta in Focus Economia dell'EMA, l'Agenzia Europea per il Farmaco, che lo ricordiamo ancora una volta, tra mille polemiche di oggi però, è stata assegnata con sorteggio tra Amsterdam e Milano e ha vinto Amsterdam. Ricorda la portavoce, il portavoce della Commissione Europea Margaritis Schinas che le regole, compreso il sorteggio finale, sono state prese dai 27 ministri degli esteri. Non è questo l'indirizzo al quale chiedere, dice Schinas. E permettetemi di dire che in questo caso non ha torto. A livello europeo, poi ce la si prende sempre con l'Europa intesa come, no, come burocrazia europea e via dicendo. Però ricordatevi che molte delle regole che ci sono vengono prese a livello intergovernativo, vuol dire tra i 27 che si riuniscono e decidono determinate regole. Quindi non è Juncker che ha detto adesso facciamo col bussolotto, sono i 27 governi, compreso quello italiano, che hanno detto facciamo col bussolotto, che poi in realtà erano due buste, bisognava scegliere tra due buste, ma insomma il concetto più o meno è lo stesso. Poi che non piaccia, che piaccia o non piaccia, è un altro ragionamento e siamo ai gusti personali, però la sostanza è questa. Di certo registriamo le dichiarazioni a proposito della Spagna, o meglio le indiscrezioni a proposito della Spagna, perché fonti, le famose fonti vicine al dossier, dicono questo. Il ministro degli esteri spagnolo Alfonso Dastis, riferiscono fonti vicine al dossier e quindi il governo italiano in sostanza, aveva promesso al governo italiano l'appoggio di Madrid alla candidatura di Milano, ma poi la Spagna non ci ha votato. Queste fonti dicono alla fine ha prevalso la sfortuna. Stando a quanto riferisce il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha detto di aver sentito al telefono Gentiloni subito dopo la decisione a Bruxelles e il presidente del Consiglio, a quanto pare, era molto arrabbiato, è difficile immaginare Paolo Gentiloni molto arrabbiato, però insomma era molto arrabbiato con la Spagna, a quanto pare. A chi ci chiede se sono in 27 come hanno fatto a finire in pari, perché la Slovacchia si è astenuta sia nel voto per l'EMA che nel voto per l'EBA, l'autorità bancaria europea, che poi è andata a Parigi, anche quella al sorteggio. Milano con EMA ha perso un'ottima opportunità, ma ora bisogna assolutamente andare avanti con i progetti in corso, a partire da Human Technopole. Tra poco la nomina del direttore, lo spiega Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e membro del comitato di coordinamento Human Technopole. Sentiamo l'intervista realizzata da Livia Zancaner. Affidarsi alla dea bendata per una scelta che invece dovrebbe essere basata sul principio di responsabilità e valutazione tecnica è, a mio parere, un fatto inaccettabile, ma sembra che le regole fossero quelle, quindi c'è poco da fare. Sarebbero state molte le sinergie con lo Human Technopole? In generale sarebbero state molte le sinergie con il paese, con il sistema produttivo, soprattutto in ambito farmaceutico, ovviamente anche con il Technopole, con le università, i centri di ricerca clinici, gli ospedali. Non dimentichiamoci che Milano è un centro di assoluta avanguardia internazionale, con una concentrazione di competenze e infrastrutture elevatissimo, quindi sarebbe stato veramente un'eccellente opportunità. È ovvio che purtroppo è così e quindi bisogna assolutamente andare avanti, non possiamo certo fermarci a pensare ad un'occasione per quanto importante che è andata perduta, e quindi bisogna insistere in quello che stiamo facendo, cioè il lavoro che stiamo facendo, che stiamo portando avanti. Quindi a breve, parlando di Human Technopole, ci sarà la nomina del direttore. Sì, dovrebbe esserci all'inizio del nuovo anno la selezione da parte di un pannello internazionale di esperti della persona che farà da direttore del Technopole. Nello stesso tempo una parte degli spazi di Palazzo Italia saranno resi già disponibili a metà dicembre e il resto della predisposizione degli spazi continuerà secondo l'agenda che è stata già definita. c'è un piccolo gruppo di giovani che sono in formazione per la parte di gestione che è necessaria, in modo tale che quando arriverà il direttore potrà già avere uno staff, diciamo, operativo per le cose fondamentali. E so anche che lo statuto è stato depositato, presentato dal governo, quindi insomma auspicabilmente in tempi non troppo lunghi dovrebbe costituirsi l'entità giuridica, la fondazione Human Technopole. A quel punto la macchina parte e poi il resto, diciamo, sarà responsabilità del direttore e di tutte le persone che verranno. Ma dai, ma non iniziamo con le teorie del complotto, il sorteggio pilotato pro Francia e Germania. Su, qualcuno ce lo scrive via SMS. No, e non so, lo dico all'ascoltatore che fa la battuta, se hanno aperto l'altra busta per vedere il nome della città, per vedere che non ci fosse scritto Amsterdam su tutte e due le buste. Va bene, parliamo dell'economia italiana che intanto, secondo l'Istat, va bene. Nel 2017 si chiuderà con un rialzo dell'1,5% in termini reali. Tasso di crescita in accelerazione rispetto a quello registrato nel 2016. Lo ricorderete, abbiamo chiuso l'anno con un più 0,9% l'anno scorso. Riviste al rialzo le indicazioni e segnali positivi anche per l'occupazione, secondo Istat. Dice il succitato presidente del Consiglio Gentiloni: siamo finalmente in un contesto nel quale l'economia è tornata a crescere, non è una crescita senza lavoro, è molto importante che l'Istat certifichi che la crescita corrisponde a un calo della disoccupazione. E poi davanti alla platea della Guardia di Finanza, all'inaugurazione dell'anno di studi della Guardia di Finanza, dice: ci sono successi nella lotta all'evasione, ma ancora molto da fare. Da quello stesso palco interviene anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il quale dice che nel 2016, grazie alla collaborazione costante tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, sono stati recuperati 6,3 miliardi di euro in termini di redditi non dichiarati IRPEF e 1,6 miliardi di euro di base imponibile IRAP non dichiarata, un più 11% per l'IVA evasa scoperta dai reparti della Guardia di Finanza, quasi 5 miliardi e mezzo. Si punta tra l'altro adesso all'estensione della fatturazione elettronica anche tra privati, spiega Padoan. Sentiamolo. Negli ultimi anni si è passati da un approccio di tipo sanzionatorio e repressivo a interventi che favoriscono e incentivano l'adempimento fiscale dei contribuenti. Il nuovo quadro normativo ha consentito di migliorare ex post i controlli e di misurare l'entità delle sanzioni alla gravità della violazione fiscale. La strategia di contrasto all'evasione è stata inoltre centrata su un approccio ex ante di tipo preventivo, che considera i contribuenti come soggetti da assistere nell'assolvimento degli obblighi tributari. In questo contesto resta prioritario intensificare il processo di digitalizzazione del sistema economico e di recupero del gettito con l'estensione della fatturazione elettronica. L'Italia ha già avviato da alcuni anni un percorso di progressiva digitalizzazione, di cui la fatturazione è parte rilevante. L'obbligo di fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione ha rappresentato il primo fondamentale tassello verso la digitalizzazione del processo complessivo e più in generale del ciclo d'ordine. Ha riguardato circa 22.000 amministrazioni ed 1 milione di fornitori, che rappresentano il 20% dei soggetti IVA. Il flusso attuale, ormai a regime, è di 2,5 milioni di fatture al mese. A partire dal 2019 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria anche per i rapporti tra privati, business to business. Ultime due notizie. La prima è quella che riguarda la Banca d'Italia. Sale nel 2016 la spesa media di gestione di un conto corrente bancario, che è cresciuta di circa 1,1 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 77,6. Questo emerge dall'indagine annuale, appunto, sui costi dei conti correnti delle famiglie. E poi all'Italia parla il commissario straordinario Luigi Gubitosi, dice: a ieri l'azienda aveva in cassa 849 milioni di euro dei 900 milioni messi a disposizione dallo Stato con il prestito ponte. Poi, parlando delle trattative per la cessione con più di un paio di soggetti, Gubitosi ha detto che non abbiamo fretta di chiudere, perché avere la possibilità di essere solidi, stabili e forti ci permette di non chiudere in fretta. Veniamo al primo tema di giornata, che sono le pensioni. E no, sinceramente, smettiamola con questa teoria del complotto. No, non puzza un po' che entrambe le votazioni siano arrivate in perfetta parità? Dell'EMA, naturalmente. E lo dico ad Emilia, che invece commenta sulla pagina Facebook durante la diretta: oh, sì, penso che le due buste fossero uguali, in tutta sincerità. Non penso, adesso la state prendendo veramente male questa storia del sorteggio, eh. E tutte le volte che ci hanno ripescato dopo i gironi andati male ai mondiali, ragazzi. No, è un peccato, però è così andata. Davide Colombo del Sole 24 Ore, ciao, buonasera Davide. Buonasera a voi. Eccoci qua per parlare di pensioni, al centro dell'attenzione, al centro di questa manovra, di questa legge di stabilità, che sarà l'ultima ovviamente prima del voto. E insomma, probabilmente non è un caso che sia l'ultima legge di stabilità prima del voto e che si parli così tanto di pensioni, però questo è un altro ragionamento. Veniamo invece ai contenuti. Davide, oggi il governo si è presentato con una proposta rafforzata rispetto alle precedenti per venire incontro ai sindacati. La CGIL ha detto di no un'altra volta, ha detto il 2 dicembre parte una mobilitazione, tutto questo non è sufficiente. Cosa contiene di aggiuntivo rispetto alle modifiche che abbiamo visto nei giorni scorsi, ossia quell'ipotesi per 15 lavori di abbassare il limite dai 67 anni per 15 lavori più usuranti? Che cosa c'è di nuovo nella proposta portata oggi? Ma devo dire veramente abbastanza poco. Qui stiamo proprio a sfogliare il carciofo, diciamo. Per fortuna questo è stato l'ultimo incontro. La CGIL, il segretario generale della CGIL ha chiesto già un incontro con i capigruppo, perché evidentemente vuole aprire il fronte parlamentare. Cos'è stato aggiunto rispetto a sabato? È stato aggiunto che le donne, le lavoratrici che hanno i requisiti per accedere all'APE sociale, ovvero all'ammortizzatore di ultima istanza in caso di mancanza di altri ammortizzatori per arrivare alla pensione, potranno godere di un bonus di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni. Nella versione, diciamo, precedente il bonus era di 6 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni, che vuol dire che a questo punto le lavoratrici con i requisiti da APE sociale potranno essere accompagnate alla pensione anche solo con 2 figli anziché avere 4 figli, uno scenario evidentemente con la nostra demografia meno realizzabile. Vediamo adesso quando arriverà l'emendamento alla legge di bilancio del governo, la sua relazione tecnica, capiremo come cambiano i saldi per questo intervento, e veramente stiamo al margine del margine rispetto a tutto quello che è invariato rispetto alla proposta di sabato, che già aveva visto la CGIL rifiutare, e ora hanno detto questa manifestazione il 2 dicembre. Davide, io adesso dobbiamo fermarci un attimo, andiamo a sentire il meteo. Vorrei che tu rimanessi con noi subito dopo per parlare del tema che è di sottofondo, no? Che fa da sfondo a tutto questo. Da una parte quelle che sono alla fine delle esigenze elettorali, dall'altra parte la volontà di tenuta del ministro dell'economia Pier Carlo Padoan dal lato dei conti, perché noi lo ricordiamo sempre, con te lo abbiamo fatto spesso, guardate, quando si toccano le pensioni, quando si tocca il, appunto, il sistema di pensionamento, non è che si tocca qualcosa da poco, perché sono cose che magari possono avere un effetto elettorale ottimo nel breve termine, magari ti fanno guadagnare qualche voto in più, e però poi a lungo medio termine è una cosa che rischia di massacrare i conti. Ne parliamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da DocFlow, agire in digitale. Scopri di più su docflow.com. Focus Economia. Soy el fuego que... Ed eccoci di nuovo, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp. Molti di voi ci stanno scrivendo, alcuni a proposito proprio del tema delle pensioni, alcuni ci dicono si va a toccare un aspetto cruciale, che è la qualità della vita, che viene prima dei conti pubblici. Sparisce la categoria dei nonni se tieni la gente al lavoro fino a 70 anni. Bah, innanzitutto bisogna vedere, perché un settantenne di oggi non è certamente un settantenne di 20 anni fa, come è chiaro che sia. E poi, allora, è vero che la qualità della vita è più importante, no, dal punto di vista individuale è più importante dei conti pubblici. È anche vero che questo è un paese che ha un debito che è il 130% del PIL, e quindi, insomma, qualche riflessione anche su questo dovremmo farla. Comunque, Davide Colombo, mi sembra che il tema sia esattamente questo, no? Con i conti pubblici che abbiamo, gli spazi manovra sono esigui, ed è così per tutto, compresi i provvedimenti per i giovani. Ma allora, facciamo così, diamo due numeri, così giusto per far capire i nostri ascoltatori. Nel corso di questa legislatura, dal 2012 facciamo, tra il 2012 e il 2013 e oggi, il debito pubblico è aumentato di 9 punti percentuali. Con le misure pensionistiche che sono state varate l'anno scorso, sono state innescate maggiori spese per previdenza per 7 miliardi nei primi 3 anni, 26 miliardi nei primi 10 anni. Con le misure che sono, come dire, oggetto dell'accordo di questa mattina, e che si innescherebbe una ulteriore spesa per circa 300 milioni a regime, a queste risorse bisognerebbe aggiungere le risorse che erano già state previste per, appunto, gli allargamenti dell'APE sociale nella legge di bilancio. Diciamo che ovviamente se il tema è la qualità della vita, si può spendere di più in fare più spesa sociale, magari più spesa sociale di qualità, però bisogna reperire le risorse per coprire questa maggiore spesa sociale da qualche altra parte, se si continua a considerare che il contratto sociale non scritto in cui ci muoviamo è quello che prevede un'evasione fiscale di 150 miliardi l'anno. Sì, e questi sono numeri a questo punto inoppugnabili, in quanto numeri evidentemente, e l'ambito nel quale ci si muove è quello che ha descritto il nostro Davide Colombo. Poi ognuno qua, ovviamente, i nostri ascoltatori che sono magari vicini all'età della pensione o che comunque sanno che l'età della pensione automaticamente si allungherà, però come si dice a Davide, il tema è esattamente questo, la sostenibilità sul lungo termine, cioè il sistema pensionistico non si misura nell'arco di uno, due anni, tre anni, si misura, diciamo, nel lungo termine, no? Diciamo che un sistema previdenziale degno di questo nome dovrebbe essere sostenibile nei prossimi 30, 50, 70 anni. Teniamo conto di un altro dato, non di finanza pubblica, ma demografico, quindi purtroppo ancora più duro della finanza pubblica, perché è ancora meno gestibile dai governi che si succederanno. Quest'anno noi abbiamo un indice di dipendenza dagli anziani, cioè il rapporto tra quanti sono i residenti con un'età superiore a 65 anni rispetto ai residenti con un'età compresa tra 15 e 64 anni, i cosiddetti cittadini in età da lavoro. Allora, oggi ogni 100 cittadini in età da lavoro ci sono 25 cittadini sopra i 65 anni. Teniamo conto che non tutti e 100 lavorano, purtroppo. Sì. Nel 2066, cioè tra appena 50 anni, questo rapporto raddoppia, avremo 50 over 65 anni ogni 100 cittadini in età da lavoro, e anche nel 2066 non tutti purtroppo lavoreranno. Questa è una dinamica, è un terremoto demografico, diciamo, che fa il paio con la dinamica del debito pubblico che dicevo prima. Questi due driver sono i fondamentali. Questo vorrebbe dire, per spiegarlo agli ascoltatori, questo vorrebbe dire che tu dovresti sostenere di fatto l'intero sistema pensionistico con metà della popolazione, se fosse in piena occupazione, solo metà della popolazione che lavora, metà della popolazione, no? Attiva. Purtroppo avremo circa, in questo tempo, circa 10 milioni in meno di residenti in età da lavoro, e ovviamente non sappiamo quali saranno le tecnologie del 2066, non sapremo quale sarà la produttività del 2066, però se facciamo un mero calcolo sull'indice di dipendenza degli anziani, purtroppo questa qui è una dinamica demografica che sta scritta nei tendenziali e che ci dice che stiamo andando verso quella società lì. Ecco, bisogna tener conto anche di questo aspetto quando si parla di sostenibilità di un sistema previdenziale che, ripeto, non si misura tra una prova elettorale, sì, e l'altra, ma si dovrebbe misurare, come dicevo, in 30, 50, 70 anni. Grazie a Davide Colombo del Sole 24 Ore per questi chiarimenti. E voglio dirlo all'ascoltatore che ci scrive: è chiaro che se fai lo stradino non è la stessa cosa che se fai il giornalista, cioè è chiaro che io ho potenzialmente degli anni di lavoro più lunghi, ho più tempo, per così dire, per stare qua a lavorare, perché è un lavoro meno usurante, appunto. Ma infatti i correttivi che si stanno pensando sono questi. Diciamo che c'è un'idea sullo sfondo di ricambiare i criteri di calcolo di tutto il sistema pensionistico, praticamente erga omnes, ossia per tutti, e questo potrebbe rappresentare un grosso problema. Poi che lo stradino, appunto, chi asfalta le strade, possa andare in pensione due anni prima o possa non sottostare a quel medesimo calcolo, beh, è un ragionamento che ci può stare. Altro discorso è farlo valere per tutti. Comunque, tema aperto, dibattito aperto e, come avete sentito, scontro aperto. Facciamo così, sentiamo cosa ha detto Susanna Camusso a proposito di questo, la segretaria della CGIL, e poi il traffico, ci ritroviamo subito dopo, e i mercati. Noi confermiamo un giudizio di grande insufficienza del testo che oggi il governo ha prodotto come suoi impegni rispetto alla legge di bilancio. Innanzitutto perché la distanza che c'è tra le proposte di oggi, che sono più o meno equivalenti a quelle delle occasioni scorse, e gli impegni che il governo aveva assunto nella seconda fase sono assolutamente evidenti. Così come è evidente che mentre la seconda fase era improntata all'idea di intervenire sul sistema previdenziale per correggerne le iniquità, noi siamo di fronte a una proposta del governo che di nuovo si muove per deroghe e per individuazione non di norme generali del sistema, ma per piccoli interventi che hanno caratteristiche derogatorie, il che vuol dire rendere incerto il sistema previdenziale. È un'occasione persa. È un'occasione persa in termini di prospettiva del sistema, pensiamo in particolare ai giovani e alle donne. Questa è la ragione per cui noi continuiamo a sostenere che l'avvertenza previdenziale è aperta. È la ragione per cui, per sostenere questo giudizio da un lato e il mantenimento dell'avvertenza, la CGIL indice per il 2 dicembre la prima mobilitazione. Focus Economia. Ed eccoci, mentre continuano ad arrivare molti messaggi sul tema delle pensioni, a testimonianza che è un tema caldo e che evidentemente la politica fa bene a cavalcarlo. Andiamo a sentire cosa succede sui mercati con Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore. Ciao Flavia, buonasera. Buonasera a tutti. Eccoci qua. La giornata è positiva, più 0,62% il FTSE MIB, più 0,7% il FTSE All Share, positive anche le altre borse europee. L'America è positiva sul Dow Jones, più 0,76%, così come sullo Standard & Poor's 500. Che giornata è, Flavia? Sì, è una giornata appunto positiva in cui i mercati hanno, diciamo, quasi preferito ignorare quelli che sono i fattori di incertezza, in particolare la situazione politica in Germania, dopo che ieri è emersa questa difficoltà, dopo 2 mesi dalle elezioni, a formare il governo con le dichiarazioni che sono state fatte dalla stessa Merkel. E quindi diciamo, il mercato che veniva da 2 settimane quasi di debolezza, in qualche modo oggi sono prevalsi, nonostante appunto un avvio cauto, poi alla fine sono prevalsi gli acquisti, soprattutto sulla scia di Wall Street, che sta continuando ad aggiornare i record intraday, sia con il Dow Jones, con l'S&P 500 che per la prima volta ha superato la soglia dei 2600 punti, che con il Nasdaq. Questo per quanto riguarda il quadro generale. Migliore a Milano, Tenaris, poi ci sono anche Saipem, Eni, qua il petrolio, no? Sì, esattamente. Oggi il petrolio ha aperto positivo a New York, è arrivato a salire con il WTI di oltre 1%, adesso sale dello 0,6%, e questo movimento comunque ha sostenuto tutto il comparto, non solo a Milano ma anche nel resto d'Europa, perché per esempio la migliore a Parigi è stata Technip FMC, che è praticamente una società che fa più o meno le stesse cose di Tenaris. Ferragamo. Ferragamo appunto è chiuso con un più 2,29%, e insieme a Leonardo, che ha preso un più 2,89%, sono stati due dei titoli che nelle ultime settimane erano stati un po' tra i più penalizzati del FTSE MIB, dopo la pubblicazione delle trimestrali che aveva deluso il mercato. Quella di Ferragamo e invece quella di Leonardo, con le indicazioni e i tagli dei target, in qualche modo oggi c'è stato, in questo diciamo clima un po' più positivo, c'è stato un tentativo di recupero di entrambi i titoli, che probabilmente forse erano scesi anche troppo. Di Enel parleremo tra un attimo, perché avremo, come già dicevo agli ascoltatori, Laura Bettini in diretta da Londra per raccontarci un po' questo piano strategico presentato oggi. Comunque più 2,58% il titolo. Tra le banche, giù UbiBanca meno 3,04%, BPM meno 1,96%, BPR Banca meno 1,38%. Rapidamente, Flavia, ci sono notizie particolari? No, non ci sono novità, se non il fatto che comunque questi titoli, da quando sono uscite le indicazioni sull'addendum riguardante le sofferenze bancarie, continuano ad essere più penalizzati. Questa mattina sembrava che potessero in qualche modo seguire il movimento positivo su Milano, che vedeva in particolare il Carige e Credito Valtellinese interessate dagli acquisti, mentre invece poi nel pomeriggio sono di nuovo emersi le vendite su questi titoli, che quindi continuano a pagare questa incertezza probabilmente sulla situazione di quelle che poi saranno le nuove indicazioni sulla gestione delle sofferenze. Però appunto non c'è una notizia nuova, in qualche modo comunque è una debolezza di cui risentono ormai da sedute. Le due banche al centro dell'attenzione invece, Carige e Credito Valtellinese. Sì, appunto, Carige è stata la migliore in assoluto di Piazza Affari e ha chiuso con un più 53,6%. Il Creval invece ha chiuso con un più 15,35%. La seduta di entrambe le banche è stata costellata da tutta una serie di stop and go in continuazione in asta di volatilità, e il Creval aveva già recuperato il 47% ieri, quindi in qualche modo continua un po' questo movimento di recupero. Aveva perso quasi in due settimane quasi il 70% dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da 700 milioni, e probabilmente è complice di questo recupero anche il fatto che da ieri e fino per ora data da destinarsi, sul titolo c'è il divieto di mettere ordini senza limite di prezzo, e quindi è possibile che questo elemento già ieri aveva sostenuto il titolo e che continui a farlo anche oggi. Mentre invece per Carige appunto anche lei era stata fortemente penalizzata dalle vendite dopo gli annunci riguardanti l'aumento di capitale da complessivi 560 milioni. Oggi è arrivato il via libera della Consob al prospetto informativo, e quindi già da domani dovrebbe esserci la negoziazione. Ti ringrazio, grazie a Flavia Carletti, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire il GR, ci ritroviamo subito dopo, parleremo di Enel e di taxi. Sono Enrico Ruggeri, grandi avventure e grandi incontri al Falco il Gabbiano di questa settimana. L'incredibile storia di Vincenzo Perugia, l'umile operaio che lavorava al Louvre e che per patriottismo rubò la Gioconda. Una leggenda per il calcio di tutti i tempi, per se stesso e per il suo Portogallo, Eusebio. E sulle ali di carta voliamo alla terribile vicenda di Madame Butterfly, quando un amore tradito diventa tragedia. Mario Riva, il volto sorridente del sabato sera televisivo che segnò un'epoca. Clarence Clemons, un gigante buono al fianco di Bruce Springsteen, lui e il suo sassofono. Tutti i giorni alle 3 del pomeriggio il Falco il Gabbiano su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da DocFlow, agire in digitale. Scopri di più su docflow.com. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp. Siamo anche in diretta video sulla pagina Facebook di Radio 24. Seconda parte di Focus Economia, di nuovo una buonasera da Simone Spezia. Dunque, ricominciamo parlando di taxi, perché oggi c'è stato lo sciopero, o meglio il blocco dei tassisti dalle 8 alle 22, tassisti che sostengono che le misure del governo hanno deregolamentato il servizio pubblico aprendo dei taxi, aprendo il mercato alle multinazionali e favorendo per esempio Uber, e che le proposte avanzate, in particolare per quanto riguarda la territorialità e il rientro in rimessa per gli NCC, non sono irricevibili. Il viceministro dei trasporti Riccardo Nencini è con noi e lo ringrazio perché so che ha interrotto un impegno per poter intervenire in diretta da noi. Nencini, buonasera. Buonasera, come sta? Bene, tutto sommato, ce la cavichiamo. Avevo la febbre stanotte, ma adesso sto meglio. Io ho vissuto una giornata da assediato in Fort Alamo invece. Sì, perché avevate i tassisti sotto il ministero, no? È così. Hanno fatto molto casino? È una forma di protesta abbastanza robusta, però alla fine si è rivelata educata. Una protesta educata. Lei ha detto che lo sciopero è ingiustificato, perché? È ingiustificato perché larghissima parte delle proposte che anche l'NCC e le loro associazioni, che ricordo sono una trentina, hanno avanzato e recepite. Il no è venuto dall'inizio soltanto dal... Però abbiamo dei problemi di connessione, Vice Ministro, se riesce a mettersi vicino a una finestra, ammesso che i tassisti non lancino oggetti verso la finestra mentre lei è là, magari riusciamo a sentire meglio. Allora, vediamo se riusciamo a ricominciare. Ci diceva perché considera lo sciopero ingiustificato. Non ce l'abbiamo, vediamo se riusciamo a recuperare Riccardo Nencini, vice ministro ai trasporti e infrastrutture dei trasporti, per cercare di capire che cosa succede. Soprattutto quello che vogliamo cercare di capire è cosa il governo abbia messo effettivamente sul tavolo per venire incontro alle richieste dei tassisti. Vediamo un po', ce l'abbiamo? No, ce l'abbiamo, vediamo un po', eccoci qua. Eccolo qua, vediamo se adesso prende, funziona, riusciamo a far reggere la linea. Chissà se sono operazioni di disturbo da parte dei tassisti, ma non credo sinceramente. Allora, diceva Nencini, sciopero ingiustificato perché? Perché larga parte delle richieste che sono state presentate da molte delle associazioni che siedono a quel tavolo, lo ricordo, sono una trentina le sigle che rappresentano taxi ed NCC, moltissime di quelle proposte sono state recepite dal governo. Secondo, non abbiamo inventato noi le app, le piattaforme digitali, esistevano già, le stiamo regolamentando e questa è una grandissima novità. Se ci viene chiesto di cancellare le piattaforme digitali, le mutande alla scienza non vorremmo proprio metterle. Ma nella fattispecie, voi che cosa avete proposto ai tassisti? Che proposta avete presentato sul tavolo che evidentemente li ha infastiditi? La legge fondamentale che regola questo settore risale al 92, quindi a 25 anni. 25 anni fa non c'erano le grandi innovazioni tecnologiche di cui oggi possiamo godere, da cui trarre vantaggio, da cui il cittadino può trarre vantaggio. Abbiamo proposto di far pagare le tasse in Italia alle piattaforme digitali, di registrarle in un apposito registro oneroso per loro, di annientare laddove vi fosse stato il caporalato di lavoro e quindi portare in regolarità, adottare i criteri del diritto del lavoro che è in vigore in Italia, abbiamo addirittura previsto, accettando una loro indicazione, un registro con una doppia registrazione, una per le grandi piattaforme ed una incentivata per le piattaforme che le cooperative dovessero costituire. Poi, per rendere il mercato più adatto, consapevole rispetto alle richieste dei cittadini, dei consumatori, abbiamo previsto un allargamento della territorialità su base regionale per l'attività degli NCC. Questi sono i due punti fondamentali. E ai tassisti tutto questo evidentemente non va bene, ma ad alcune sigle. Tanto che al tavolo, fino a ieri l'altro mattina, sono arrivate proposte di alcune sigle di NCC e di alcune sigle di taxi congiunte, proposte che condividevano i principi fondamentali della riforma. Qua si dice, appunto, loro dicono, tra le altre cose, Uritaxi dice, non bisogna consegnare il settore alle multinazionali. Qua però si pone anche un problema. Hanno ragione, però le multinazionali non le ha inventate il governo Gentiloni, non le ha inventate il viceministro Nencini, esistono, e se esistono in una condizione di caos noi non vogliamo cancellarle ma regolamentarle. Voi siete disponibili a venire incontro a parte delle richieste delle sigle, a questo punto più oltranziste, come sembra? Lo abbiamo già fatto. Se recepissimo la loro indicazione, avrebbe soltanto un significato, esattamente quello della dattilografa di fronte al computer. Io mi tengo la mia macchina da scrivere, il computer non lo voglio. L'ultima domanda, Nencini, avete intenzione di procedere a questo punto con chi ci sta, suppongo, e poi gli altri si adatteranno, immagino, visto quello che ci dice. Il tavolo di concertazione aveva due obiettivi da raggiungere, sui quali eravamo tutti d'accordo. Il primo, un decreto contro l'abusivismo, già siglato, sta facendo il suo iter. Secondo, la riforma della legge del 92, e da questa stiamo lavorando. È un obiettivo che il governo può raggiungere, può farlo anche con una varietà importante delle sigle che stanno a quel tavolo, lo ripeto, una trentina, e non è facile, e quindi la mia opinione è che si debba proseguire. Proseguirete. La ringrazio, grazie dunque. Prego. A Riccardo Nencini, viceministro dei trasporti, nonostante le difficoltà di connessione sembra che siamo riusciti a parlare. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, appunto, forse in parte anche coinvolte dalla sciopero dei taxi, e poi Enel e il piano strategico. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo. Qualcuno ci scrive, e qua inizia la consueta battaglia, dice: non c'entrano niente le app, i tassisti non vogliono Uber perché fa tariffe più basse e deregolamenta il settore, facendo perdere il monopolio. E qua si coglie un punto che è un pezzo del problema. Noi lo diciamo sempre: ognuno ha le sue ragioni. Alcuni di costoro temono di perdere il monopolio anche perché magari hanno investito 100-150 mila euro, è il caso di Milano, tanto per fare un esempio, più o meno su questi numeri viaggiano le licenze, e hanno acceso un mutuo per pagare questa licenza, e si vedono sottrarre del mercato. È comprensibile che ti dia fastidio quando ti manca il terreno sotto i piedi, poi che uno sia d'accordo oppure no, E poi sì, qualche altro ascoltatore scrive: sì, Uber ha un servizio migliore. Mediamente sì, è oggettivo questo, ma è un servizio diverso, cioè sono cose diverse. Bisogna trovare un... inserire il tutto in un quadro generale, quello che mi sembra che stia provando a fare il governo, ma non è per dire Nencini è bravo, il governo sta facendo un ottimo lavoro, è quello che si sta provando a fare, giustamente una disciplina ferma dal 92, prima o poi bisognerà metterci mano, insomma. Per darvi un'idea, Ve lo ricordate lo StarTAC, il telefonino della Motorola, quello che si apriva come una specie di conchiglia, per così dire? Era del 96. Quattro anni dopo il varo della normativa sul settore, adesso siamo qua con dei telefoni con i quali possiamo chiamare delle auto, possiamo fare mille altre cose, quindi è comprensibile che la modifica ci debba essere. Parliamo di energia adesso, meglio di Enel, che oggi ha presentato il suo piano strategico. La giornata in borsa evidentemente apprezzato dal mercato, perché la giornata in borsa chiude con un rialzo del 2,6%. È il piano strategico 2018-2020. La nostra inviata a Londra, Laura Bettini. Ciao Laura, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Simone, buonasera. Eccoci qua, inizia a darci qualche dettaglio, vai. Qualche dettaglio. Allora, innanzitutto piano 2018-2020, perché Enel dice che abbiamo già centrato gli obiettivi del piano che vi avevamo presentato lo scorso anno e quindi adesso guardiamo oltre. Prevediamo investimenti per 25 miliardi di euro, 30% di questi sulla manutenzione, 70% sulla crescita. A loro volta gli investimenti per la crescita sono dedicati, leggiamo, per l'80% ai mercati maturi, così appunto ha spiegato l'amministratore delegato Francesco Starace, quindi parlando con più precisione a Nord e Centro America, niente quindi sul Sud America, e poi Italia, Penisola e Iberica, dove c'è necessità di ammodernare le infrastrutture per le esigenze del 2000. Simone, a proposito di quello che dicevi tu, le esigenze sono cambiate e forse possiamo sentire Starace su questo punto. Tu l'hai intervistato, che illustra mentre illustra, sentiamo i punti salienti del piano strategico, via. Noi insistiamo sui pilastri della strategia che avevamo presentato l'anno scorso, quindi efficienza e crescita e poi una combinazione tra rotazione degli asset e semplificazione societaria. A questi pilastri aggiungiamo poi uno sforzo lungo due direttrici importanti, che sono la digitalizzazione, su cui investiamo circa 5 miliardi, e una nuova linea di business che questa si chiama e-solutions, in cui vengono messe al centro dell'attenzione tutte queste necessità nuove che si vedono emergere dai clienti, sia industriali, business, che commercialmente retail. È in questo contesto di innovazione che si inserisce questa scelta di tornare a investire su mercati che erano già maturi? Sì, diciamo, i mercati maturi stanno dimostrando una grande necessità di investimenti, non tanto in addizionali infrastrutture, ma nella modifica di infrastrutture esistenti per renderle compatibili con quello che oggi la tecnologia sta offrendo e che i clienti richiedono. Si è parlato anche di argomenti più generali, no? Dice Starace, per l'addio al carbone nel 2025 mancano gli strumenti. In teoria sarebbe possibile farlo in 7 anni, ma bastano appena appena. Abbiamo la direzione, perché la strategia energetica nazionale prevede l'addio al carbone entro il 2025. Abbiamo la direzione, ma non ci sono stati dati gli strumenti per arrivare all'obiettivo in maniera efficace. Laura, con Starace avete parlato anche di auto elettrica, no? Abbiamo parlato anche di auto elettrica proprio perché è stato presentato ieri sera e poi dopo a tutti quanti, al resto del mondo, questa nuova divisione di Enel che si chiama e-Solutions, ma che sarà presentata con un marchio proprio dal 2018 al mercato, con il marchio che sarà Enel X, o detta all'italiana Enel X, e quindi è stata l'occasione appunto per parlare di veicoli elettrici, perché Enel X si occuperà principalmente di questo nuovo tipo di servizi alle imprese, ai cittadini, alle amministrazioni pubbliche, e quindi controllo remoto, domotica, colonnine di ricarica, connettività di sistemi, illuminazione, ma insomma, visto che la Volkswagen proprio di recente, poi se ne fa allusione in questo passaggio di intervista con Starace, cioè, ha parlato di quello che investirà sull'auto elettrica, ci siamo chiesti appunto, l'Italia è pronta? Sì, sentiamolo, va. Tutti i paesi sono pronti per la mobilità elettrica e nel frattempo non pronti. Questa è una situazione comune a tutti i paesi e in Italia non fa eccezione. Cos'è che è pronto? Sostanzialmente la tecnologia, per cui ci sono le macchine e tra un anno o due le grandi case automobilistiche le metteranno sul mercato. Abbiamo sentito l'altro ieri un annuncio molto importante di una casa automobilistica, di cui non faccio il nome, che investe 34 miliardi in 5 anni solo su questo. cosa non è ancora pronto? L'infrastruttura necessaria perché le macchine possano circolare bene. Quindi lo sforzo nostro e la parte nostra è questa. Stiamo realizzando un grande piano nazionale di infrastruttura di ricarica che coprirà tutta l'Italia in maniera omogenea, in modo tale che nei prossimi 2 anni dalle 7.000 alle 10.000, 12.000 colonnine pubbliche saranno disponibili ai proprietari di macchine elettriche. Potranno magari offrire qualche altro servizio in più queste colonnine? Sì, diciamo sono multifunzionali, chiaramente lo scopo principale è quello, cominciamo da quello. Poi ci saranno anche altri servizi che saranno possibili sulla stessa infrastruttura. A chiudere, Laura, c'è anche tutta la questione del digitale che ha molto a che fare con l'energia e anche con il risparmio energetico, ma non solamente con quello. E su questo Enel ha deciso di creare una divisione apposita, no? Sì, questa divisione appunto di cui vi dicevo prima, Enel X, che è guidata, sarà guidata, ma comunque già al vertice c'è Francesco Venturini, e quindi gli abbiamo chiesto subito dopo il lancio un po' di spiegarci qual è il senso di questa scelta di proprio porre una divisione a parte che si occupi di questo. Siamo partiti da quello che facciamo tradizionalmente, che quindi vendere energia, lo vogliamo fare in maniera leggermente diversa. Stiamo uscendo da quelli che sono il paradigma classico di ti vendo energia e ti mando una bolletta, nel concetto di un po' più attuale di energy as a service, quindi ti vendo energia insieme a tutta una serie di servizi. All'interno di questo nuovo paradigma ci stanno pure le auto elettriche, sì. Una parte che mi ha molto colpito è anche questa della rete, della condivisione, no? Stranissimo quello che sta succedendo anche nel mondo dell'energia, l'impatto del digitale è fortissimo e noi dobbiamo ovviamente cercare di capire come questo qui cambierà il business del domani. Il digitale si basa sul concetto di piattaforma, la piattaforma si sviluppa nel mondo energetico in maniera diversa. Una delle maniere, l'abbiamo appena accennata, è quella dei veicoli elettrici, quindi i veicoli elettrici sono contemporaneamente dei grandi consumatori di energia e allo stesso tempo l'energia che accumulano la possono dare indietro alla rete in forma di servizio. E per fare tutto questo qua serve ovviamente tanta tecnologia e tanto software, e noi stiamo investendo in questo. Grazie a Laura Bettini, inviata a Londra per la presentazione del piano strategico dell'Enel. E qua fatemi, prima di chiudere, dare una sola risposta, perché forse c'è stato un fraintendimento con qualche ascoltatore. Guardate, qua non è che si stanno difendendo i tassisti o difendendo la protesta dei tassisti, dicendo che hanno ragione loro in questa battaglia che una parte dei tassisti sta conducendo contro Uber. Altri conducono la battaglia più sul piano del mercato, anche tra i tassisti, più sul piano del mercato che sul piano della piazza. Non si stanno difendendo i tassisti. Sto semplicemente dicendo che il mio mestiere di giornalista richiederebbe che uno sguardo sulle ragioni dell'una e dell'altra parte. E vi ho dato anche la posizione dell'altra parte, che è appunto quella dei tassisti, di persone che magari hanno investito del denaro in queste licenze, che siano legalmente o non legalmente vendibili, questo è un altro conto. E quindi non è un dare ragione, ma semplicemente un dire, per certi aspetti questo tipo di protesta è comprensibile dal loro punto di vista, se vi mettete nei loro panni. Poi sull'essere d'accordo, qua insomma chi mi ascolta e mi conosce sa che se c'è una persona che non è sospettabile di avere un buon rapporto con i tassisti su questo tema con Uber, sono proprio io. I ringraziamenti a Valeria Bernardi in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. Libera la voglia di fare.